Ciao, eccoci. Ciao, niente, in questo momento è arrivato il corteo della Bicocca che dopo aver bloccato i binari di Greco è arrivato su via Alessandro Manzoni e ha di fatto ha preso di spalle, di sorpresa, i carabinieri che erano stavano fronteggiando il corteo dell'interfacoltà, per cui della statale di scienze politiche che appunto stava, insomma, era stato caricato diverse volte, per cui insomma la polizia ha smesso, si sono fermati i fronteggiamenti nel momento in cui un corteo spontaneo è arrivato dietro di fatto all'accelere, per cui ancora una volta ci siamo garantiti l'incolumità del corteo. Stanno succedendo cose straordinarie in questa città, abbiamo saputo che appunto ci sono stati altri contatti verso via dell'Orso, un blocco degli studenti medi, dei tecnici è andato anche a contatto con la polizia anche in via dell'Orso. Ovviamente sono notizie che arrivano in maniera molto frammentata, nel senso che insomma siamo, la situazione è molto difficile, facciamo anche a capire anche la conta dei feriti, le diverse cariche che ci sono state non la sappiamo perché appunto siamo ancora in strada, la tensione rimane comunque alta. Tra l'altro, se potete darci novità rispetto agli emendamenti, il DDL, se sta passando. Guarda, l'unica novità che arriva è che su alcuni su alcuni punti è passato, cioè il governo è andato sotto grazie a Futuro e Libertà, che però sì, guarda, si ricordiamo... sta muovendo il corteo, si sta muovendo il corteo, c'è l'accelere completamente schiacciata in questo momento. Sì, ecco, si stanno ricompattando i due cortei, ecco, la celere si è aperta, sto facendo ricompattare i due cortei in questo momento, sono tantissimi. Chiediamo alla polizia di fare due passi indietro per far defluire gli studenti della Bicocca. Niente, per cui è rientrato lo spezzone della Bicocca nel corteo, insomma, dell'interfacoltà. Rimane adesso il fronteggiamento con i carabinieri e il fatto che non c'è percorso plausibile, ecco che l'accelere indietreggia, lascia spazio al corteo, l'accelere sta indietreggiando, non ci sono comunque possibilità di trattative per percorsi, siamo bloccati, è una roba allucinante, siamo bloccati almeno in 2000 persone senza possibilità di muoverci, veramente non so dal punto di vista dell'ordine pubblico che cazzo stiano combinando, proprio perché appunto è impensabile pensare di far sciogliere un corteo di 2000 persone partito da mezz'ora, cioè insomma sì, che tra l'altro appunto cioè è una roba veramente assurda. Con una situazione che si sta appunto creando, allora, come dici tu. Ecco, si sta formando altri cordoni coi caschi, sono davvero decine gli studenti in testa, ecco che dietro, siamo imbottigliati, dietro si formano altri cordoni, compagni della statale stanno facendo i cordoni in testa e anche in coda dalla testa stanno provando a muoversi, per cui dall'altra parte della strada, sempre su via Manzoni, c'è comunque la polizia che blocca questo momento, cioè la situazione è veramente delirante, ecco. No, di spalle no. Senti, ascoltami, guarda, ascolta, allora, visto che la situazione qui mi sembra abbastanza stabile, visto che mi chiedevi informazioni, pare che il governo sia stato battuto su alcuni emendamenti dei finiali, ma si sa, il problema di questa riforma è che non deve passare, neanche modificata, non può passare, questo ci sembra abbastanza scontato. Noi magari ci riaggiorniamo tra un po', capendo se il corteo di Milano si riesce a muovere. Qui non abbiamo margini di trattativa, abbiamo a che fare con dei funzionari che non conosciamo, cioè che sì, conosciamo, che l'hanno già dimostrato poi appunto che si conoscono abbastanza bene. Cioè vi dico, non c'è mediazione con la Digos, c'è solo la celere schierata, tra l'altro carabinieri, è davvero una situazione difficile, non alla minima scintilla, insomma, scoppiano manganellate, cose. In questo momento speriamo che il corteo degli studenti medici raggiunga per toglierci da questo imbottigliamento. Sappiamo che loro sono intorno alle 3-4 mila persone, per cui se arriva, ecco, c'è, cioè l'accelere si sta muovendo, no, in realtà va via la polizia, e, ecco, è stata mandata via la polizia che era arrivata in un secondo momento e è stato rafforzato con un plotone di carabinieri, per cui rimane la piazza in mano interamente ai carabinieri rispetto agli universitari, che sono quelli che martedì appunto avevano ricevuto le cariche, le mangate dei le manganellate dei carabinieri. È un segnale anche quello quando ci sono i carabinieri in piazza. Certo. È un segnale anche quello, i carabinieri che in piazza, sì, e non la celere. Allora vabbè, dai, ci riaggiorniamo tra un po'. Ovviamente sai benissimo, se ci sono novità importanti chiamaci. Sì, in questo momento il corteo comunque sta defluendo verso un'altra vietta, ci sono i cordoni che avanzano verso i cordoni della celere, per cui insomma è così, potrebbe scoppiare una scintilla da un momento all'altro, è così. Benissimo, dai, a più tardi. Federico, 100 celle. Perché il carcere nuoce gravemente alla salute. Quando tu sei me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che... Momenti un po' concitati, come starete immaginando, ma abbiamo qualche altra novità che arriva però dalle agenzie di stampa. Sì, vediamo intanto, insomma, diamo una panoramica di quelli che sono stati gli emendamenti che sono passati oggi. Il primo è stato quello sul famoso emendamento anti-parentopoli, che è stato presentato in un primo momento dall'IDV, ma poi fatto proprio dalla Lega e Futuro e Libertà. Emendamento anti-parentopoli che dice che in pratica per accedere alla carriera universitaria non si debbano avere parenti in quella stessa università fino al quarto grado di parentela. Il governo invece è stato battuto su un emendamento di Futuro e Libertà all'articolo 19 della riforma, quello sugli assegni di ricerca, e questo emendamento